Ti incontrai, passiamo insieme a notte. Ti incontrai, così per caso. Ciao. Non spiegarmi ma sono solo parole. Ti perdonerei, ma intanto stare male. Scusami, sì tutta vita mia. Dove sei? Con chi sei? Sei bella come il mare, ma se farmi tanto male. Dove sei? Sei con lui, questa volta ci ha unito. Stupido, io che ci ho sperato. Vado via dalla vita tua. Dove sei?